vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 18 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, il programma di Radio Big World che ormai lo sappiamo cerca di sgrossare a noi campagnoli perlomeno la tela con cui ci vestiamo e in qualche modo apparire in città un pochino più rispettabili, un pochino meno provinciali. Perché? Perché in città si vive diverso, in città si pensa diverso, in città si respira la modernità e noi altri che ancora stiamo dietro a potare gli olivi e a cambiare la marmitta al trattore, di modernità, se ce ne intendiamo, è quella delle fiere dell'agricoltura. Ma io che un campagnolo sono, che gli olivi li poto e che il trattore non cambia la marmitta perché non ce l'ho, costano un botto, mi tocca riferirmi a qualcuno che invece in città ci è nato, che ha visto le grandi cose che succedono, i mondiali e quello, la gente, le feste, i fuochi e quanto altro c'è di bello nella città, le luci della città, i neon, quando qui da noi c'era ancora la lampada a petrolio, e colei che ci guiderà nel bel mondo metropolitano, e colei che mentre noi ancora andavamo dallo sciamano per farci fare la danza della pioggia, lei con gli aerei bianchi senza contrassegno spruzzava il cielo di composti chimici per ragioni di bioingegneria climatica, Laura! Ciao, ciao a tutti. Sì, ti tocca sempre rivolgerti a me, carissimo. Laura, dalla provincia arriva una novità, arriva un'informazione che, parlando in creolo, sarebbe breaking news. Sul giornale più letto della Toscana, che non è il Corriere della Sera e che non è, che ne so, il Fatto Quotidiano Repubblica, ma nemmeno la Gazzetta dello Sport, il giornale più letto in Toscana è l'Informacoop, tanto che ci sono addirittura ministri che ci fanno l'editoriale, e nell'Informacoop si diceva che lo scoppio del carro lo fanno anche a Figline, lo sappiamo, ma lo fanno anche alla Rufina e a Panzano in Chianti. Pensa te. Pensa te. Quindi, ma sono tutte imitazioni. Vi scolombinano anche nel Chianti e nel Mugello. Interessante questa cosa, che avete uno scoppietto del carro in ognuna delle regioni, diciamo così, del Fiorentino. Bello! Ma sì, bello, sono imitazioni, eh. Comunque l'originale è in Piazza Duomo a Firenze. Ma oggi non parleremo di carri che scoppiano, ma piuttosto di qualcos'altro che scoppia. Di coppie che scoppiano. E parleremo di tradimenti, divorzi, avvocati, ricorsi a Bruxelles, perché come è divorziare in città. E direi che il divorzio, vabbè, ora i divorzi sono per tante cause, ma una delle cause dei divorzi, perlomeno nei film ce li fanno vedere così, sono i tradimenti. I tradimenti ci sono e, insomma, ci sono sempre stati. Giulio Cesare prese le coltellate da parecchi con cui si intratteneva con le mogli. Com'è il tradimento a Firenze, in città? Sicuramente più facile da nascondere, ne avevamo già parlato. Se fare cose per bene non ti sgamano. In paese, io mi domando, ecco, voi di paese, ma come fate a tradire? Cioè, sapendo che tempo 5 minuti lo sa mezzo mondo, come vi salta in testa di fare questa grande, ricca figura cascina? Ecco, non lo so, mi domando poi come fanno i cornuti di paese a riprendersi le mogli fedifraghe e viceversa, come fanno le mogli cornute a riaccettare in casa i mariti, perché cioè non solo lo smacco personale all'interno della coppia, ma anche la diceria, la chiacchiera, la vicina di casa e quello che dice, che sa tutti i movimenti della relazione clandestina che ha avuto il partner. Come fate? Effettivamente è un problema gigantesco. È vero che però non mi passa la voglia di tradire. No, effettivamente no. È vero che le cose si fanno alla zitta, quindi diciamo che almeno all'inizio la situazione è fumosa, ma qui a qualcuno fare uno più uno ci mette pochissimo, pertanto poi comunque la si viene a risapere in giro. Conosco di gente che si è ripresa in casa mariti o mogli fedifraghe, effettivamente sì. Sai una cosa che ho notato? È che prima o poi la gente col tempo tende a dimenticare. Pertanto... Quello è vero, ma la figura di... quella, boh, secondo me rimane scolpita proprio nella pietra. Che poi io penso, no? Conoscendo della gente di paese, ma qui che sono tutti un po' cornuti. Ma com'è sta storia? Ma forse la differenza è semplicemente che in paese si sa, in città non si sa. Il peso delle corna in città, secondo me, è più lieve da sopportare. Fra moglie e marito la questione non coinvolge molte chiacchiere dei vicini. E è un dato storico. Abbiamo parlato anni fa con un signore molto anziano, pace all'anima sua, che ora non c'è più, Vittorio Firli. Si ricordava Montevarchi prima della guerra benissimo, e si ricordava quando era ancora una cittadina industriale, ai tempi in cui, insomma, in Italia ancora si viveva la rivoluzione industriale. E lui dice: c'è una Montevarchi prima della guerra, c'è una Montevarchi dopo la guerra, ma quello che è rimasto identico sono i tradimenti. Pensa a te. È un po' come il mestiere più antico del mondo, quelle cose che non tramontano mai. A proposito, te pensi, no, che uno dopo essersi separato, divorziato, insomma, l'uomo può andare un po' così libero a trovare qualche donnina per sfogarsi? Invece statistiche dicono che la maggior parte dei frequentatori di queste donnine è sposata, quindi insomma, boh, non so, a voi le riflessioni. Mi è capitato di assistere a una scena qui in uno dei paesi qui intorno, dove c'era un signore che con fare un po' sospetto si aggirava per le vie del centro, un signore che sarà stato ultra sessantenne, e a un certo punto si apre una persianina da una finestrina e una signorina che sembrava domenicana o comunque caraibica, che lo chiama su e gli dice: Piero, vieni! E poi questo signore dopo 20 minuti è sceso. Parlava il creolo? Sì, e probabilmente questo signore era sposato con figli, insomma, quindi effettivamente, però sai, una rondine non fa primavera, un dato non fa una statistica, però sono piccoli esempi, anche perché insomma oggi come oggi, con i sistemi che ci sono ora, telefonini e chat e social network, oggi anche l'andare con le signorine allegre è diventato una questione più social che, non lo so, criminal, ecco. Ma questi che tradiscono, per esempio a Firenze, ma dove le trovano le partner per tradire, o viceversa, cioè le donne che tradiscono, dove li incontrano i partner per consumare il tradimento? Ma capito, questo non si sa a noi, perché non è che ce lo vengano a dire. La differenza sta tutta lì, sono cose molto molto intime questi tradimenti cittadini, mentre invece nei paesi poi lo sai quello dove ha conosciuto l'altra, così come poi viene fuori, scoppia la bomba su tutte le conseguenze, insomma si fa presto anche a risalire all'origine della conoscenza. Io suppongo i social giochino un ruolo importante, insomma, sia in città che in paese per incontrare. Poi dipende, no? Se uno vuole tradire di proposito, allora insomma ci sono le chat, ci sono i siti proprio ad hoc. E poi che ne so, c'è qualcuno magari che si imbatte casualmente in amanti, così. Probabilmente il luogo dove è più facile trovare un amante è il posto di lavoro, perché volente o nolente tu frequenti i colleghi 8 ore al giorno, e se ti piace qualcuno, insomma, è anche semplice poi nascondere bene la cosa e tornare a casa zitti zitti. I mitici tradimenti, dottore, infermiera, tipici degli anni 70-80. Esatto, no, tipici ora, tuttora, perché conosco proprio una coppia di amici dei miei genitori che si è scoppiata perché lui, infermiere, c'aveva una infermierina tirocinante come amante, sì, quindi hai portato un buon esempio, ecco. Un amico divorziato che era un talent scout almeno un tempo per trovare relazioni extraconiugali, e lui sosteneva che uno dei posti migliori fosse fuori da scuola. Quindi quando andava a riprendere i figli degli amici, perché lui non li aveva, si proponeva lui per andare a riprenderli a scuola e lì imbroccava le mamme divorziate, mamme single, e le invitava a prendere un caffè, diceva se già vengono a prendere il caffè è quasi bingo, poi qualche serata su Facebook e l'affare era consumato. Anche perché con le mamme davanti a scuola, insomma, è facile attaccare bottone, parli del figlio, parli di cosa ha fatto il bambino a scuola e voilà. Non c'è bisogno di tanta fantasia. Uno scrittore, sì, quindi Montevarchi, che vive a Firenze, Vanni Santoni, ha scritto un libro, trattava di altre cose, cioè di droghe, però il concetto era gli interessi in comune. È fondamentale per riuscire a creare tele, reti di connessioni tra le persone. Quello che è importante è avere un interesse in comune più di Vabbè, due amanti possono avere semplicemente un unico interesse, senza andare tanto sul filosofico. Vabbè, tu c'è. Vabbè, non parliamo solo di tradimenti, perché il tradimento poi non necessariamente porta al divorzio. Io conosco tante donne becche e felici e tanti uomini altrettanto becchi e altrettanto felici, insomma. Ale! Vai al punto, vai a... Sì, torniamo al divorzio, insomma. Vabbè, il tradimento come causa maior di divorzio, ma non è l'unica. Per capire di che numeri stiamo parlando, al di là delle statistiche ufficiali, io tra i miei amici, le persone che più o meno frequento regolarmente, tra il bar, lo stadio e gli amici di differenti gruppi, divorziati ce ne sono, ma non tantissimi, insomma, alla fine rimangono comunque una minoranza rumorosa, ma una minoranza. Mentre nelle tue cerchie di persone che conosci? Ma il problema è che nella mia cerchia di persone che conosco ci sono pochissimi sposati, quindi faccio male, però ecco, un bel paio di divorzi ce l'ho freschi tra le mie amicizie, quindi insomma è difficile da dire, perché se uno prima non si sposa non può divorziare. Poi citiamo anche la nuova legge che permette il divorzio breve, questo è importante per chi volesse, insomma. Io pare che un sacco di sessantenni siano corsi in comune o comunque dove si fanno i fogli, proprio perché non vedevano l'ora di non vedevano l'ora, hanno avuto un'agevolazione dal punto di vista legislativo e via, olè, liberazione. I tuoi amici divorziati o le persone che hai sentito hanno mai parlato di costi e difficoltà del divorzio? Non me l'hanno mai detto, ma io so che ora con questo divorzio breve anche i costi sono molto diminuiti. Ah sì, ecco un esempio di un divorzio costosissimo, ma è semplicemente quando uno dei due partner vuole proprio rompere le scatole all'altro, anche economicamente. Se i due sono d'accordo, se la cavano con cifre non esagerate. Ma un amico, ecco, ora mi ci ha fatto pensare, effettivamente sta spendendo tutti i suoi risparmi in avvocati, ci sono di mezzo anche figli, un casino tremendo. Cioè, se uno dei due vuole mandare in rovina l'altro, ci riesce, fra avvocati, processi, rinvii, cause, ce la fa, quindi penso sia un costo variabile. Poi sai che cosa è anche interessante? Sarebbe interessante, però non conosco nessuno, parlare con qualcuno che fa annullare il matrimonio alla Sacra Rosa, che mi sembra veramente una spesa, non ti dico inutile, per carità, ma sai, chi vuole poi essere libero di risposarsi in chiesa sente proprio sta necessità. Chiaro. Lo sai, cioè, l'annullamento alla Sacra Rosa costa migliaia e migliaia di euro, che poi sarebbe interessante sapere, parlare con qualcuno che ha speso tutti questi soldi. Allora, per quanto riguarda i costi del divorzio, diciamo, popolare, dei popolani, un amico che ha divorziato, lui ha fatto un divorzio pacifico, lui ha accettato tutto, senza discutere niente. così pulito, tanto è l'avvocato, dice: è la prima volta in vita mia che mi capita un coniuge così. Lui ha detto 10.000 l'ho spesi per sposarmi, 10.000 l'ho spesi per divorziare. Per quanto riguarda la Sacra Rota interessantissimo, perché per via del concordato con lo Stato italiano, se la Sacra Rota riconosce l'annullamento del matrimonio, anche per lo Stato italiano è nullo, per cui non ci sono gli alimenti. E qui da noi una coppia di famosi, famosi personaggi della televisione, loro che abitano qui vicino, loro effettivamente, una dei due, insomma lei, ha ricorso alla Sacra Rota, in parte famiglia di cattolici, e non so quanto hanno speso, ma insomma era gente che alla RAI guadagnava diversi soldarelli. Per cui sì, probabilmente è una cosa molto costosa e anche molto lunga. La cosa buffa è che questa famosa showgirl... Non fa il nome? Non faccio il nome, che sai, qui siamo in paese, ci sarà qualcuno sotto qui la finestra, ma appunto, che ascolta. Ma fa pure il nome, se sei in paese, se non lo fai tu lo fa la vicina. È la ex Miss Italia Bocci Beatrice, che è... Ah, vedi, cioè basta chiedere, cioè così subito ti sbrachi. Io pensavo che tu continuassi a farla rimanere anonima, invece bene bene, me la sapevo. Sono personaggi pubblici, ci mancherebbe, per carità, quindi è un modo per, con simpatia, cercare di far capire un esempio a noi che ci sono vicini un po' come funzionano le cose. E la ma lo sai, Beatrice Bocci ha sposato due persone che si chiamano Alessandro Greco, esatto, entrambe, lo sapevi? Quello è. La cosa buffa è che avevano i due suoi coniugi, avevano lo stesso identico nome. Sì, sì, infatti, va bene. E quindi che successe? E quindi credo il matrimonio è stato annullato, così lei è stata in grado di risposare in chiesa un Alessandro Greco, però stavolta il presentatore televisivo. Bene. Però, insomma, si parla comunque di gente dello spettacolo e quindi di gente che magari ha certi strumenti, o per ricorrere a certi strumenti ha le risorse anche finanziarie. E una volta che siamo fuori dal matrimonio, una volta che si è liberi, tra virgolette, perché poi rimane dei traumi, conosco la gente che, insomma, ancora non prende sonno, ma comunque si ritorna a essere single. E... essere single a Firenze, com'è? Sicuramente è meglio che essere single in paese. Firenze ti offre più possibilità, ti offre locali, puoi conoscere gente nuova, invece in paese, ma che fai? Conosci sempre gli stessi e come fai a evadere? Vieni in città, forse. E in città trovi locali dove, insomma, sì, puoi conoscere gente nuova, ma secondo me più che nei locali ti devi dare a certe attività, come vabbè, la palestra, ti devi dedicare al tango. Il latino americano, salsa, il latino americano, perché c'è un amico che l'ha provato di tutte e alla fine sai dove è riuscito a riaccoppiarsi? In parrocchia, perché dopo aver provato il latinoamericano, tango e altri vari sport, è andata anche, perché anche la parrocchia è una buona fonte di conoscenze, perché poi varie parrocchie anche di città diverse si incontrano, fanno le vacanze insieme e lì può succedere. Il vostro ex sindaco alla fine ha conosciuto sua moglie così, e grazie allo stesso gruppo di cui faceva parte il vostro ex sindaco, effettivamente tanta gente qui del Valdarno, grazie alle parrocchie, ha trovato moglie dall'altra parte del Fiorentino. Vedi, vedi. Allora, quindi ci sono questi escamotage, però cioè, tu ti puoi nascondere dietro un corso di tango, dietro una frequentazione della parrocchia, dietro... la palestra, insomma, puoi trovare scuse dicendo: guarda, voglio andare in palestra, voglio... senza ammettere palesemente che stai cercando di riaccoppiarti. Se invece non hai queste remore e dici: mi voglio proprio riaccoppiare, voglio trovare una persona, a parte andare sui siti dedicati, quello ci andiamo noi in città così come voi in paese, perché con internet fa molte differenze, bisogna dirlo, sono scomparse tra la provincia, sì. Quindi insomma è tutto un po' a portata di tutti, però in città c'è proprio l'appuntamento per eccellenza dei single, cioè lo speed date. Dai, ma che cos'è? Forse voi l'avete visto solo nei film. Oddio, sì. Anch'io in realtà l'ho visto solo nei film. Perché c'hai un tot di tempo per parlare con la persona di fronte a te, ma pochi minuti, ora non so quanti. Poi cambi posto, c'è un'altra persona davanti, e quindi nel giro di un'oretta conosci tipo 10 uomini. Una donna conosce 10 uomini, un uomo conosce 10 donne. Ognuna di queste ha un numerino. E poi dopo, non so esattamente come, ma esprime la sua preferenza, no? Allora, tipo la donna numero 3 è rimasta attratta dall'uomo numero 5, numero 6, e lo scrive, però rimane anonima sta cosa. Poi gli organizzatori vedono se ci sono due attrazioni reciproche, cioè se si sono trovate due persone senza, però, cioè l'uomo numero 5 non sa che è piaciuto alla donna numero 3, no? L'uomo numero 5 a sua volta deve avere espresso un apprezzamento verso la donna numero 3, e allora poi gli organizzatori mettono in contatto i due, e quindi lo speed date funziona così. È forse meglio di un sito per incontri online, perché perlomeno c'è un vis-à-vis, anche se di pochi minuti. Sicuramente avrà visto qualche film, no? Nel bel mezzo di un discorso, stop, finisce il tempo e cambia parte. Però guarda, deve essere divertente alla fine, ma mi ricorda molto la fiera delle vacche che si fa qui in autunno. Insomma, alla fine dice: chi la prende quella? La prendo io. Chi fallo? Una cosa molto simile. Allora, magari per noi di campagna forse ci siamo anche più avvezzi, solo che stavolta non sono animali, ma sono persone. Oddio, le vacche potrebbero esserci anche allo speed date. Eh beh, questo effettivamente sì. Siamo una società un po' sovrappeso, e soprattutto siamo una società dove... Dai, facili costumi, dai! Dai, facili costumi, brava! Non pensavo al peso. È vero, dai, facili costumi. E di storie di facili costumi ne raccontano di incredibili. Per esempio, qui da noi c'è una palestra che era cominciata come tutte le palestre in uno scantinato, e ora c'ha addirittura 4 piani e l'ultimo è con la piscina. E questo perché? Perché in quella palestra lì si era sparsa la voce che donne quarantenni fameliche e super palestrate si aggirassero in cerca di giovani toy boy, non saprei come chiamarli, e effettivamente si è riempita di questi big gym, e di conseguenza si è riempita anche di quarantenni che cercano i big gym. Forse è stata una voce messa dalla palestra per crescere e fare i soldi. E anche a Firenze si va in palestra per cercare un potenziale partner di fisico. Te l'ho detto, è uno dei modi per camuffi la sua voglia di conoscere gente nuova con la scusa di farti un po' di muscoli, di dimagrire. E poi vabbè, effettivamente in palestra hai più possibilità di trovare un uomo o una donna, insomma, ben messa fisicamente, e, cioè, se vai, che ne so, in un altro luogo, in birreria, forse trovi un uomo col panzone. Se vai in palestra trovi un uomo con la tartaruga, però insomma, è da vedere, eh? Tutto da vedere. Che poi magari quello si sbomba di steroidi e magari è preferibile il panzone con la birra, perché l'alcol alle prestazioni sessuali si influisce, ma non quanto quegli steroidi. Ecco, magari palestrato poi ti delude dopo, allora meglio partire a basse aspettative, e poi il panzone, cioè la birra nel sangue invece ti può dare soddisfazioni sperate. In effetti il latinoamericano è una via di mezzo, perché alla fine è un'attività fisica, quindi serve qualcuno che sia agile e segua la musica, e allo stesso tempo non si rischia di trovare uno con gli steroidi, non c'è mica da sì, lanciare. Comunque il latinoamericano ha lasciato delusi tanti uomini. Ah, sì? Perché ci vanno tanti uomini, e sono tipo 50 uomini che si contendono 5 donne, perché non lo so, non ho mai capito perché sono sempre di più gli uomini in cerca delle donne, cioè come se il divorzio colpisse solo gli uomini. So che è impossibile, però o la donna si raccoppia subito, boh. E che dici? Secondo qualcuno è più facile per una donna trovare un partner che per un uomo trovare una partner. Ho capito, ma è la donna che trova un uomo, e allora sì. Ma... è vero, c'è un mistero quantico, i numeri non tornano. È vero. E un'altra cosa è vera di quelle che hai detto, non che hai detto cose false, ma nel senso, una cosa in cui mi ci sono ritrovato, quando hai detto, beh, al di là della palestra o della fino americano che magari si fa sotto casa, però effettivamente quando si va nei locali si va in città. E in ogni città, ora Firenze, sì, probabilmente più di tutti, insomma, almeno in regione, però per esempio anche qui nelle cittadine più grandi, Arezzo, i capoluoghi, insomma, della provincia, effettivamente questi locali ci sono e sono locali cittadini. E chi li frequenta mi ha detto è fondamentale una cosa, e cioè arrivare lì con una bella macchina, altrimenti è proprio aver perso il tempo. Ora, si parla comunque di cittadini di provincia, Arezzo c'ha 80-90 mila abitanti e non è comparabile con Firenze. A Firenze invece vale ancora la regola della macchina, cioè del trattore? No. Alla prima di tutto ricordati quando parlammo di parcheggio, che la macchina spesso il fiorentino la lascia a casa perché non vuole poi dopo rischiare di girare mezz'ora per ritrovare il posto, o perché c'ha la pulizia della strada e non la sposta, si perde mezz'ora di imbrocco. Esatto. E poi secondo me è molto più importante avere una casa dove portare eventualmente la preda. Cioè, in macchina che fai? In macchina ci danno i ragazzini, scusa, cioè, pensa poi al dopo, pensa ad andare al sodo. Cioè, molto più figo uscire dal locale in centro, quindi la macchina poi dove la metti in centro? È inutile. Ma è la macchina, chiaro. È proprio inutile. Guarda Giorgio, se pensi di comprarti casa o comprarti la macchina, compra la casa, dammi l'esempio. D'accordo. Allora, tu arrivi in centro, tuo uomo divorziato, singolo, in cerca, arrivi in centro, conosci una bella donna, dove andiamo, cara, da me o da te? Andiamo da me. Chiami il taxi e ti fai portare, ecco, sotto il tuo bellissimo monolocale, magari arredato con il minimo indispensabile, e oppure insomma se hai un attico ancora meglio e via, ecco. Quindi la macchina, proprio anche se non ce l'hai, a Firenze va bene uguale. Ci eravamo dimenticati del taxi, è chiaro, in città si chiama un taxi. Massima, che macchina, è Mercedes. Okay. Fa figo, il gesto della mano così a chiamare il taxi. Sti fiorentini ne sanno una più di Savonarola, incredibile. E amici di Radio Big World, qui si chiude questa rassegna su tradimenti, divorzi, single, quarantenni d'assalto o palestrati/palestrate, e naturalmente ringraziamo Laura per le sue preziosissime informazioni. Ma di niente, caro. Allora, mentre mi chiamo un taxi per andare nel mio attico in centro a vedere i fuochi di San Giovanni mentre scoppia il carro con dentro i cinesi, mentre canta il grillo della festa del grillo, mentre canta il grillo della festa del grillo, quello l'hanno fatto fuori in un tucano parcheggiato in doppia fila. Ricordiamo un proverbio, stavolta proverbio della provincia, ma proverbio anche fiorentino, che dice: un divorzio fa due poveri. Olè!